particolare a Susan e a Vito, però vogliamo vedervi ballare, perché questa è una canzone d'amore. D'amore, Vito. Un pezzettino, dai. Eccoli che arrivano in pista, bravi. Sei un ragazzo fortunato, perché credo che Susan sia veramente una donna dolcissima. Buona serata a tutti quanti, grazie di essere intervenuti. Arrivederci.